Allora, oggi vorrei insieme a voi trarre qualche insegnamento dalla prima lettura, secondo libro di Samuele, capitolo 6, in cui si parla di Davide che accoglie festante l'arca dell'alleanza. Voi sapete cos'era l'arca dell'alleanza per il popolo di Israele? Che dopo un periodo che era stata preda di guerra dai Filistei, ritorna finalmente nella città santa, Gerusalemme. E allora si fanno grandi festeggiamenti. E in questi festeggiamenti Davide, in onore di Dio, ci si mette anche lui di buona lena, rivestito degli abiti sacerdotali. Dice l'efod di lino, era un vestito sacerdotale, si mette a danzare, a ballare davanti al corteo. Voi sapete che la danza non è solo puro divertimento come in discoteca. La danza, se guardate soprattutto alla cultura dell'Oriente e dell'Africa, è un grande strumento di comunicazione. È un grande strumento anche di preghiera, se fatta in un certo stile. Così Davide prega, fa festa in cima a questo corteo. Quando arriva a casa sente sua moglie, perché dice: «Bella figura che hai fatto, il re di Israele danzare come un giullare in questo corteo, e in questa tua foga di danza ti sei anche un po' scoperto, insomma, no? Perché si suda, ci si agita, ti sei spogliato quasi di fronte alle serve del tuo popolo». Allora gli viene la mosca al naso e reagisce come in tutte le nostre famiglie. Dice: «Guarda che io l'ho fatto per il mio Signore, esattamente quel Dio che ha scartato tuo padre, i miei, i tuoi, e ha scelto me, e la tua famiglia con tutte le tue borie è stata scartata». E da lì continua, perché se una moglie deve parlare così a suo marito, al re, è chiaro che c'è della ruggine, e finché si separano, finché vengono in piedi storie. Ora, io trovo dentro un grande insegnamento in questo atteggiamento di Davide e vorrei cercare di applicarlo alla nostra vita, perché cerco di fare sempre così, di prendere la parola di Dio, che non tramonta mai, e vedere che cosa mi insegna oggi. Per esempio, mi insegna che davanti a Dio bisogna abbassarsi, bisogna umiliarsi. Questo mi fa venire in mente, oggi non è più così, ma avendo un po' di anni di età, come qualcuno di voi, ci viene in mente 30-40 anni fa, la messa domenicale era non raramente una sfilata per le gentili signore. Lo è ancora nella messa di matrimonio, dove c'è o da ridere o da piangere a vedere certe allestimenti delle gentili signore per andare non a onorare Dio, ma a mettere in mostra se stesse. E non è questo l'atteggiamento davanti a Dio, è l'abbassarsi. Per questo dovremmo anche noi sacerdoti fare una bella autocritica e dire: del resto queste cose le abbiamo fatte anche noi preti. Sull'altare quante vesti, quante moine, quanti bastoni di comando ricordo i monsignori avevano il diritto, capite, il diritto di portare le scarpe con le fibbie d'argento, avevano il diritto alla cappa magna con lo strascico come la sposa, preti, monsignori, no? E poi di tutte le gradazioni, anche i preti. Per fortuna è passata abbastanza sia chi viene in chiesa a sfoggiare, sia anche i preti che sull'esempio degli ultimi papi, insomma, hanno scelto una moderazione. E davanti a Dio non si va a dimostrare il proprio grado di onore, Monsignore, Eccellenza, Eminenza. D'altra parte, il metterci in ginocchio, adesso c'è la pandemia, è difficile, no? Ma il metterci in ginocchio, fare la genuflessione, che cosa vuol dire se non metterci a terra davanti a Dio? E avete presente quando i sacerdoti o i religiosi, le religiose, il giorno della loro consacrazione si stendono lì per terra, quasi dei cadaveri davanti a Dio? Perché questo è il nostro atteggiamento davanti al Signore, per terra. E così tu, perché si fa penitenza, digiuno? Non perché siamo autolesionisti, ma perché uno rinuncia liberamente a del cibo, a dei divertimenti, per offrire al Signore la sua fatica e dire: tu sei grande, io di fronte a te sono poveretto. E così altri atteggiamenti penitenziali, per esempio andare a piedi in un certo santuario, oppure se avete presente a Fatima vedere gente che fa in ginocchio quella spianata. E sì, cari amici, davanti a Dio dobbiamo abbassarci, e se non lo facciamo noi, ce lo fa fare Lui. Qual è l'ultimo abbassamento che il Signore ci dà? Altro che crederci dei Padri Eterni, altro che andare davanti al Signore e dire, confessarmi, ma io non ne ho bisogno, non ho peccati, bravo, bravo. E così dice che la Bibbia mente, perché nella prima lettera di San Giovanni sta scritto: chi dice di essere senza peccati è un mentitore. Per questo facciamo così fatica a inginocchiarci davanti al sacerdote o a sederci e chiedere perdono dei nostri peccati. Ma alla fine, dicevo, c'è un gesto che il Signore ci dà e ci stende, ed è la malattia. Tutti noi che siamo dei Padri Eterni, che siamo delle belle donne, siete delle belle donne, che siamo dei signori, dottore, ingegnere, c'è gente che viene chiamata così. Mi faceva ridere sentire una mamma che, per alludere ai suoi figli, diceva: mio figlio ingegnere, mio figlio avvocato. E povera creatura, sei anziana e ti vanti di questo niente. Ma vabbè, tu sei quello che sei, onorevole Monsignore, e sei lì in un letto, hai bisogno di tutto, di essere accompagnato nei luoghi meno onorevoli, hai bisogno di tutto, e perdi, perché il Signore te la prende, tutta la tua boria, Un po' di anni fa andai in un ospedale a trovare un mio parrocchiano di Milano che era un pezzo grosso dell'amministrazione pubblica e con mio stupore lo trovai prostrato, lui che comandava, lui che decideva, e quando passa la suora si mette a piangere commosso e dice: suora, questo è il mio prete. Dice: guarda, guarda com'è conciato. Questo che nel suo ufficio faceva fare la coda a tanta gente e li trattava. Sì, vedrò cosa posso fare. Cari amici, Davide l'ha fatto liberamente. Noi dobbiamo scegliere anche noi di abbassarci davanti a Dio. E da ultimo, andando a casa, vorrei lasciarvi un suggerimento. Perché o noi portiamo a casa qualcosa dalla predica, altrimenti cosa serve? C'è un modo per abbassarci davanti a Dio, doloroso, ed è quello di perdonare al nostro prossimo. Soprattutto quando ti sembra che ti ha trattato male, quando ti sembra che è stata una persona ingrata e ti verrebbe da dire: guarda se vale la pena fare dei favori alla gente che ti rispondono così. Sì, ti rispondono come a Gesù, dopo tutti i miracoli che ha fatto, come l'hanno trattato. Cari amici, faccio fatica con voi, queste cose che vi dico non è la predica, è un colloquio spirituale, perché prima di dirle a voi le ho meditate per me stesso, queste parole. E allora ho sperimentato, e lo suggerisco anche a voi, la fatica del perdonare a tuoi fratelli. Eppure Gesù ha detto: quello che avete fatto ai miei fratelli, io lo considero fatto a me stesso. Ecco, cari amici, come possiamo anche noi fare come Davide, che fa festa per la presenza di Dio, che viene rimproverato in casa sua, perché è così, vero? E che tuttavia continua nel suo stile. Ci conceda il Signore, anche a noi, di abbassarci per amore suo e di fargli festa, pur in mezzo a queste umiliazioni, a queste penitenze, e così sia.